fatto, penso. Ti è venuto in mente il diavolo che c'è in questo? Cioè, Dio è assolutamente il contrario del diavolo. Assolutamente sì, esattamente. Cioè, è solo amore. E il mentre diavolo è solo, è solo potere. Esattamente, è proprio così. E adesso parleremo del diavolo. E ho chiesto specificamente all'Angela Volpini se crede ai demoni, cose di questo tipo. E mi ha detto, ah no, che sono cose che vengono dall'esterno, non ci crede. Sono fatti di inconsapevolezza. Ora, io credo che possiamo chiamarle come vogliamo, i pensieri non nascono sempre dentro la testa di una persona, sappiamo benissimo che i pensieri vengono anche da fuori, cioè vengono dalla cultura in cui viviamo, e quando le persone pensano così male di sé o così male degli altri, c'è un aspetto demoniaco. Non che io creda che esista un demone con carne ed ossa che arriva, ma ci sono delle forze di contagio, no? Voglio dire, se io frequento dei nazisti e che mi parlano per tanto tempo in quel modo, dopo un po' dentro di me io divento loro. Ma se io divento loro, che cosa sto diventando? Un diavolo, un demone, qualcuno che vuol distruggere il mondo, che vuol distruggere gli altri. Quindi noi la vediamo così: l'ego è la struttura separativa in generale, il narcisismo è un po' il nucleo dell'ego, il demone è il punto centrale del narcisismo, cioè quello che non si sente così separato, che addirittura vuol distruggere tutto quello che c'è. E questo lo si trova nelle persone, eh? Cioè la distruttività assoluta. Già nelle barriere della comunicazione, quel libretto, parlo dei demoni perché li abbiamo visti in continuazione agire nelle persone, persone che vogliono solo distruggere se o altri. E Angela gli ho chiesto proprio, ma tu ci credi? E lui mi ha detto, ma no, quando parlavo, che nei nostri corsi vedo a volte in passato degli interventi che sembrano delle persone che sembrano bisognosi di esorcismi, insomma, no? Che si rantolano, fanno queste cose qui. E lei dice, no, sono fatti psichici, sono fatti, cioè condivide il nostro pensiero. Io penso che forse anche gli aspetti positivi sono più o meno la stessa cosa, cioè anche lì credo che, cioè, ci sono due teorie, quella che dice c'è Dio che viene prima e poi crea tutto, il motore primo, oppure Dio si crea durante si autogenera durante la creazione stessa, cioè non c'è nessuno che crea, c'è una materia, si sa da dove viene, non si sa nulla, però a un certo punto si forma il divino. La teoria emergentista, cioè si forma la coscienza, dentro la coscienza si forma una coscienza senza più elevata, e la coscienza del tutto è Dio. E chi raggiunge quel livello lì si divinizza. Ecco, oggi mi sembra più sostenibile scientificamente questo approccio che non quello di dire che c'è un Dio creatore, perché sembra antropomorfa, cioè siccome tutte le cose che ci sono le ha fatte qualcuno, quel televisore lì non è nato da niente, c'è un uomo che l'ha fatta, pensiamo sempre che ci deve essere una causa di una causa di una causa, e la causa prima, quella del motore primo, è Dio. È una vecchia storia che si pone nella filosofia. Io non credo che abbia nessuna importanza questo, se non per preferenze personali. Per qualcuno è bene credere in un modo, per qualcun altro è bene credere in un altro modo. L'importante è cosa facciamo qui. E sicuramente, credo sul punto possiamo concordare tutti, atei, religiosi, non religiosi, tutti, che l'uomo ha la possibilità di divinizzarsi, cioè di essere solo coscienza e amore. Questo è possibile, perché alcuni esseri umani l'hanno fatto, e siccome siamo fatti come loro, non si capisce perché non lo possiamo fare tutti. È chiaro che se nella nostra vita ci siamo spesso comportati seguendo le vie del potere, che non vuol dire che siamo diventati Hitler o Stalin, ma semplicemente che abbiamo manipolato gli altri, che abbiamo usato parole di non di verità, che abbiamo, non sapevamo chi eravamo, eravamo ignoranti. Tutte le volte che siamo ignoranti manipoliamo, non siamo integri, ricordiamocelo bene, ogni volta che io non sono integro, non esprimo me stesso, sto cercando di manipolarti. Cioè, perché ti parlo in modo da non far vedere chi sono, perché non lo sono, quella roba lì. E quindi, in misura minore o maggiore, tutti pratichiamo il potere, tutti pratichiamo la manipolazione, tutti pratichiamo la corruzione del linguaggio, e quindi chi lo fa di più poi genera anche dei demoni. Divinizzarsi è tanto più semplice per chi ha fatto meno di questo, ha meno karma, usando un termine, no, orientale, ha prodotto meno karma, ne ha ricevuto di meno. Oppure anche chi ne ha ricevuto tantissimo improvvisamente può avere un atto di avere la grazia, cioè vedere improvvisamente in un colpo solo tutta la sua vita, tutto quello che ha fatto è essere dentro in un secondo. Cioè l'illuminazione, come si dice, può essere frutto di un secondo, di un attimo, un lampo, pof. Ad esempio nel caso di Eckhart Tolle è andata così, San Paolo è andata così. Cioè San Paolo non è mica un sant'uomo prima, era uno che perseguitava i cristiani, perseguitava i deboli, cioè improvvisamente, paf, Sant'Ignazio era un condottiero, un comandante di vettura, cioè. Quindi per tutti è possibile questa trasformazione. Quello che credo oggi, se volete dire il credo mio, è che così come le cellule sono diventate via via più intelligenti sviluppando molti più recettori, che in fondo il cervello della cellula è la superficie, e quindi più grande la superficie, più recettori ci sono, più la cellula è intelligente perché ha variabilità di risposta. A un certo punto però la cellula raggiunge un limite, non ce la fa più di tanto, perché la superficie più grande di un tanto non può essere, perché è spessa 3 milionesimi di millimetro, e se la cellula diventa più grande si rompe. Quindi a un certo punto c'è un limite all'intelligenza che una cellula può sviluppare. E come fa allora a crescere l'intelligenza? La vita ha trovato la strada di unire delle cellule insieme che si specializzano, questo fondamentalmente. Allora, come facciamo a sviluppare un'intelligenza più grande? Ci sono esseri umani che hanno sviluppato il massimo dell'intelligenza personale, già hanno raggiunto livelli straordinari, ma un passo ulteriore, cioè che a disposizione comunque di tutti, è creare dei gruppi dove l'intelligenza diventa intelligenza collettiva, cioè del gruppo. Io ho sempre pensato che una mente di gruppo è infinitamente più intelligente di una mente individuale, ma perché questo accade bisogna che sia un gruppo dove si viene praticato l'amore e mai il potere, cioè che le persone sono integre, cioè che usano pensiero coerente. Questo è ciò che leggevo ancora adesso, il libro che mi hai portato tu ieri, dicevo proprio questo, l'intelligenza collettiva, l'intelligenza a disposizione del mondo. Ed è l'unico tipo di intelligenza che ci può salvare dall'emergenza in cui viviamo adesso. Abbiamo bisogno di un nuovo tipo di pensiero, linguaggio, che non sia quello che ci ha portato a questo punto, che è un punto limite, che non era praticamente evitabile perché l'uomo attraverso la tecnologia per forza arrivava qua. Adesso abbiamo bisogno di un salto evolutivo. Questo salto evolutivo può avvenire attraverso questo passaggio dall'intelligenza singola, che è sempre comunque un'intelligenza, salvo casi eccezionali, è un'intelligenza individualista, a un'intelligenza collettiva che per sua natura nasce da relazioni d'amore tra le persone. Ecco. Questo è il passaggio che ci aspetta, per questo che il Sangha, il centro, il nucleo di Aleph, è la cosa in cui credo, tutto il resto per me sono cose secondarie, e per questo che sono disposto a metterci tutto il tempo necessario, anche la fatica, quello che è il dolore, la sofferenza, perché creare un nucleo di persone coese è l'impresa più difficile che ci sia, cioè veramente estrema, ecco. Perché lì nascono ovviamente tutti gli ego, ovviamente tendono a confliggere, per loro natura, se la pigliano per qualunque sciocchezza. Questo è un po' il futuro che io vedo dentro Aleph, per questo che quando sento le brigliamenti burocratici li sento come perdite di tempo, cioè demoliamo tutto, occupiamoci solo di ciò che è essenziale. Ecco. Allora però, siccome tu dici giustamente che è anche essenziale che le persone possano vivere, certo, e non si vive di diaria e quindi devono poter sviluppare professionalità, titoli e così via, e quello ci vuole un piede nel mondo. Per il piede nel mondo però ci vuole forse una benedizione che sia staccata da questo, perché se continuiamo a lasciarci imbrigliare da queste, dalla patologia burocratica, che è una grave, gravissima patologia, noi non ce ne rendiamo conto, ma è gravissima come patologia. È la patologia che fa sì che non ci possiamo mai fidare gli uni degli altri. La burocrazia nasce dalla spersonalizzazione, dal bisogno di controllo, perché non ci si può mai fidare. Ecco, quindi le regole prolificano dove non c'è mai fiducia. Ecco, quindi quello che accettiamo come normale è in realtà una patologia a cui ormai siamo abituati, ma è che ci fa perdere ormai la patologia, che diventa complicazione infinita, e per cui poi adesso ci sono dei medici che non vogliono più fare il medico perché non ne possono più, perché passano il loro tempo a compilare i pezzi di carta, insegnanti che non fanno più gli insegnanti, ormai siamo diventati tutti burocrati, cioè siamo funzionari di un apparato, di un sistema che ormai ci domina, è la macchina di ferro di cui parla Max Weber, cioè l'uomo ha creato senza rendersene conto un'enorme gabbia dentro cui vive e poi si lamenta. Allora, come dicevi tu, per uscire da questo ci vuole una rivoluzione vera, una rivoluzione che parte da dentro, E questa rivoluzione vuol dire recupero della coscienza, cioè la coscienza che ci fa capire cosa è bene e cosa è male fare, ma bene non per me. Questo è il tema centrale ormai. In Aleph abbiamo sviluppato questo che secondo me è il punto centrale di Aleph, il metamodello 2, cioè un tipo di pensiero, un linguaggio che ci fa passare dal modello duale, cioè separativo, al modello non duale, unitivo. Allora non parlerò più del mio bene, ma solo e sempre del bene nostro, e per nostro intendo di tutti, non solo del nostro gruppo ristretto, perché anche i nazisti pensavano così, il nostro bene, per il nazismo il nostro bene è quello, no, il nostro cioè di tutti noi e di tutte le persone intorno e di tutti gli esseri, compresi gli animali, le piante, tutto. E questo è il pensiero spirituale, solo questo. Quindi questa pratica è stata ostacolata in tutti i modi dallo sviluppo del pensiero separativo, che si è inserito nelle religioni. Per cui, diceva la Volpini, non è che nelle religioni c'è qualche eccezione di potere, è tutto così, è fatto in quel modo, è costruita così, perché nel momento in cui non viene enfatizzato, non viene incoraggiata la persona a sviluppare la sua coscienza, ma gli si dice che deve dipendere dall'altro, che non si fida del suo pensiero, non si fida del pensiero delle persone. Ma questo è fascismo. Infatti, quando leggendo un libro su fascismo e chiesa, hanno delle cose in comune. Cioè, sia il fascismo che la chiesa diffida del libero pensiero degli esseri umani. Tutte e due pensano che gli esseri umani vanno guidati come pecorelle per essere portati. A parte che anche le pecore non vanno guidate, sono solo gli uomini che le guidano, perché in natura sanno fare benissimo il loro mestiere. È chiaro che se le prendi e le vuoi far pascolare in quel posto là, le devi guidare, ma se no, ecco. E così siamo noi, se abbiamo i reggimentati, dopo ci vuole qualcuno che ci domini, che ci guidi, perché i reggimentati non siamo in grado di starci. Capite bene com'è? Quindi abbiamo creato delle società in cui il potere è indispensabile. Essendo creata una società col potere indispensabile, poi il potere ha sempre ragione, perché appena viene mollato un po' si creano più danni di prima, insomma, no? Si va verso il caos, verso l'anarchia, e la paura del caos e dell'anarchia è forte, per cui poi il potere si rinforza, ogni volta che il potere cede trova tutte le ragioni per rinforzarsi. Rivoluzione francese, rivoluzione russa, cosa hanno fatto? Democrazia, potere a tutti, dopodiché le cose sono ancora peggio. E quindi di nuovo il potere centrale, di nuovo giustificazione dell'autoritarismo più brutale. Angela Volpini è una persona che ha riletto tutta la storia in questo modo, vedendo come la storia del potere degli esseri umani sugli altri esseri umani. Lei infatti a un certo punto non è più riuscita a frequentare la scuola perché non poteva seguire le lezioni di storia, gli veniva il disgusto, perché la storia che viene raccontata a scuola è una storia parziale, è una storia falsa, cioè la storia del potere, mentre non si fa vedere come gli esseri umani ovunque hanno cercato qualche altra cosa che non sia il potere. Un bellissimo libro di Rifkin, l'ultimo libro che è uscito di Rifkin, inizia con quella storia dei soldati tedeschi e inglesi, credo, o francesi, non mi ricordo manco più, che si trovavano alla notte di Natale, la vigilia, si trovavano in trincea a 50-100 metri uni dagli altri. A un certo punto un tedesco si è messo a cantare una canzone di Natale tedesca, poi ha fatto un piccolo coro, l'inglese ha risposto un'altra parte, poi un tedesco ha tirato fuori un alberello, non so che cosa, gli altri. A un certo punto, alla fine, sono usciti dalla trincea e sono andati a seppellire i morti. Tedeschi e inglesi o francesi che erano, si sono abbracciati, hanno passato la serata, e così fine di tutto. Il conflitto era finito lì. E da lì poi, il giorno dopo, i generali che hanno saputo questo hanno preso le misure, perché hanno visto che gli esseri umani, se li si lascia da soli, fraternizzano. E questo è tremendo. Ecco. Allora, la storia è fatta, una storia, cioè, sapete cos'è il nazionalismo? Noi siamo andati a scuola, ci sono andato, non me l'hanno mai spiegato cos'è il nazionalismo. Ti fanno credere che la nazione italiana, c'è la nazione italiana, c'è la nazione francese, e che era ben definita in realtà queste stupidaggini, cioè le nazioni sono state costruite con dei confini, sì, appositamente, perché le varie gerarchie, le varie regnanti avevano bisogno di un esercito, avevano bisogno di persone che andassero a morire per loro, e quindi avevano bisogno di poter creare una lingua unitaria, e quindi lì hanno creato le scuole, sono tutte queste cose qui. Quindi nazionalismo non è qualcosa di naturale, qualcosa che è nato dall'imposizione di un potere dall'alto. il bellissimo libro di Moss, Sesso e nazionalismo, come il nazionalismo, quindi il bisogno di dominio sulle persone, il bisogno dell'utilizzo, della prevaricazione dell'uomo dell'uomo sull'uomo, dell'oppressione nel mondo del lavoro, ha generato l'oppressione sessuale. E quindi il perbenismo in quel settore. Cioè, abbiamo oggi un sapere a disposizione che per chi è uomo di buona volontà non c'è nessun problema ad avere a contattare davvero ciò che è importante.